mi ha portato. Vabbè, io l'ho visto, già lo conoscevo già al baracchino, perché c'era un ragazzo lì vicino a dove avevo la falegnameria io, in via Pascoli esattamente, questo ragazzo abitava, che si chiamava Angelo, Angelo Mello, Angelo Shadow 2, che poi tra l'altro è morto un annetto fa, era un poliziotto, anzi addirittura era un vice commissario ad Alessandria, se ricordo bene, in continente, era una vita lì. E veniva anche lui con questo baracchino a tracolla che aveva il pony normale, quello 23 canali. Vabbè, ci sto, ti faccio le casse e mi lasci questo baracchino. Da lì io poi ho cominciato, ho comprato l'alimentatore, ho comprato l'antenna, l'ho piazzata nella ringhiera al primo piano dove abitavo, perché sul tetto non ci potevo salire, in quanto io ero in affitto lì in quella casa, e c'era il padrone di casa che era una persona con il brigliotto negli occhi e vedeva solo le cose a modo suo. E così ho iniziato e poi dopo pochissimo tempo mi ho comprato l'Innoiti 294 da Costantino Fara in via Principessa Maria, se ricordo bene, 150.000 lire, allora c'era la lira, e da lì è partita l'avventura, questo nel 1972, avanti ieri praticamente, vai! Anche quello era un portatile, il 6 canali, dai, come si chiama, il pony, prima che tu hai iniziato con un portatile. Ebbene, dai, poi avevo messo la Grand Plain, la usavo con l'antenna esterna, e allora arrivavo a Sassari tranquillamente, lì, Sassari, parlavo anche con Alghero, poi ho messo la Mantova, insomma, piano piano abbiamo migliorato i lineari, cose varie, insomma, l'evoluzione c'è stata per tutti. Avanti, Icla. No, ma il pony 6 canali non era portatile, Franco, era 12 volt, 6 canali, col microfono parla ascolta, era un veicolare piccolo, quanto può essere un veicolare VHF, ecco, come il mio 701 VHF, quello che metto in macchina, una cosa del genere, era nero, bellissimo, e c'aveva 6 canali con lo smitter piccolino, tipo quello che c'ha la KB23, me lo ricordo come oggi, e il microfono era parla ascolta, vero Giù? Si ascoltava direttamente dal microfono e si parlava chiaramente dal microfono, sì, è vero. Un giorno me lo sono corso, ho fatto una gara con come si chiama? Ora Zero, sì, con Ora Zero avevo fatto una gara, lui aveva in quel periodo l'MB35, no, il Contact 35B, io ho il 25, lui aveva il 35, il modello dopo, bellissimo, era bellissimo, e me lo sono fatto in gara praticamente con lui, e chi ci ha risposto? Mi aveva risposto Gabriela da Porto Torres, mi dava 5 watt e 8 mi dava Ocla. Beh, lo sai che con quel pony arrivavo più forte del Contact 35B da Bartolomeo. Sì, Gabriella era la moglie di Bartolomeo Chisiele, certo, no, ma io a casa di mamma con quel pony parlavo con tutti, arrivavo benissimo a Sassari, c'avevo però fra una Super Regibus, capito? Perché avevo prima la Standaster, che Carlo Titano, buonanima, diceva la Bastandaster di Cantiera Avea, allora sembrano questa storia, alla fine l'avevo tolta e ho messo la Super Regibus, che è tipo la Mantova, capito? Tre radiali, aveva tre radiali, però non quattro, della Mantova 1, tre radiali però la stessa lunghezza, un'antenna molto molto performante, e arrivavo da tutte le parti, poi la zona di mamma di via Cavour è abbastanza aperta, perché è proprio la punta della salita che c'è di via Principe di Piemonte, quindi arrivavo molto bene, e avevo messo quell'antenna, ma arrivava una cannonata, il pony 6 canali era una cannonata. Sì Giulio, infatti io sono entrato nel 74, senza concessione, perché mi pare le concessioni le hanno date nel 75 ho preso la concessione, che ce l'ho ancora, quella vecchia, sempre conservata, perché è un ricordo. Però però modulavo già dal fine 73, inizio del 74, dai, capito giù. Sì, qua. Beh, allora eravamo tutti pirati, un paio d'anni buoni, eravamo tutti pirati, allora. Mi ricordo, io avevo avuto anche, allora in quel periodo avevo il 1100D, ti puoi immaginare come macchina, no? E avevo l'autoradio, che adesso non ricordo la marca, che c'era anche il CB, entro contenuto nell'autoradio. Siccome avevo nella macchina avevo l'antenna di quella elettrica che saliva elettricamente quando usavo la radio, avevo fatto un innesto con altri pezzi di antenna e l'avevo portata al livello per la frequenza della 27. E per cui quando uscivo tiravo sull'antenna, innestavo il pezzo e trasmettevo col baracchino dall'autoradio stesso, e quegli anni erano favolosi, più di una volta siamo andati in giro con la buon'anima di Tore Rai e qualche altro amico, qualche cognato anche, tipo Bruno Uragano, eccetera, per trovare chi metteva la portante. Allora c'era il vizio della portante, c'era, no? Però non l'abbiamo mai trovato. Ci prendeva in giro, guarda, tu adesso sei vestito così, così e così, e stai girando intorno alla macchina. Lui ci vedeva, noi a lui non l'abbiamo mai visto. Questo tutto in piazza Sventramento, lì, piazza Conte di Moriana, mi sembra che si chiama quella lì, quella piazza lì, dove c'è il parcheggio, insomma, ecco. Vai, Fra. Caspita, come mai? Cioè, cosa aveva? Un portatile, anche lui era in macchina, com'era? No, lui era a casa, lì dove, nella via dove abitava Beniamino mio, Alfa Romeo, il figlio, e lui era lì e da qualche finestra ci vedeva, e non lo so, forse attraverso qualche avvolgibile, non lo so come facesse. So solo che la sera noi attorno alla macchina, perché eravamo un gruppo di 5-6 persone, che siamo andati a cercarlo, questo sempre tramite il discorso staccando l'antenna o Claudio, e lo sentivamo, senza l'antenna lo sentivamo lì. E però lui ci prendeva in giro, tu adesso sei vestito così, tu stai girando attorno alla macchina, tu sei vicino a quest'altro e così via. E chi era? Boh, mai conosciuto qua. C'erano i tempi allora delle portanti, caro Franco, se sentite il rumore il fono non è niente di... C'erano i tempi, ma tu immaginati a Balai, Franco, io mattinate, la domenica mattina era uno spettacolo, tutte queste macchine con le antenne sopra il tetto, nei fianchi, Corsaro Nero e Vincenzo Delfino avevano la stessa macchina, la Cinca, quella lunga, quella grande, con tutte e due le antenne uguali. Avevano le colibri dietro, nel cofano di dietro, nel fianchetto del cofano di dietro. Bartolomeo arrivava con questa Ford Thanos XL, infatti il suo nominativo era quello, con questa antennona grande che quando se ne andava la doveva piegare, la doveva agganciare, fra 2,75 m di antenna, una cosa allucinante. E la stessa antenna aveva la buon'anima Giuseppino Querciadoro, con la stessa macchina. Giuseppino Gamboni, che è il padrone lì del Lido, del bar che c'è a Coso, alla Marina di Sorso. È morto attraversando quell'incrocio, una vita facendo quell'incrocio, che hanno preso in pieno un camion a Cribad un po' di anni fa. Giuseppino, piccoletto, con zoppo, c'era una gamba mezzo andata. Per dirti, ma la domenica era uno spettacolo, queste macchine 10-15 CB tutti nel piazzale di Balai a parlare con i baracchini, era una cosa veramente molto molto bella. Adesso purtroppo non c'è più niente, dai, però sono bei ricordi. Quel 294 Giulio era proprio lì in vetrina quando io comprai la KB23 da Pinto Gescarpa. Costantino Fara l'ha conosciuto, ce l'aveva anche lui. Però Pinto Gescarpa vendeva anche baracchini e c'era questo Inuit 294 bellissimo, base celeste, stesso colore di questo microfono. E però costava un sacco di soldi. E mamma mi ha detto, mi ho questo o niente, capito, perché ero 14enne, quindi stavo per compiere 15 anni, ma ho detto vabbè dai, prendiamo questo, poi si vedrà. E da lì ho iniziato, da lì poi ho iniziato a comprare baracchini a tutto andare, che poi quando sono arrivato a Sassari nell'85 avevo già il K, era talmente tanta la passione che io, e dall'85 che uso queste radio, e fra, non è che le uso da adesso, quindi le conosco dentro e fuori, so tutti i difetti, i pregi e i difetti come si dice, però non mi sono mai avventurato a toccare niente, la verità. Nel mio piccolo due fesserie che mi hanno insegnato a fare, me li ho portati avanti, ma per il resto non ho mai toccato niente, i baracchini li ho un po' abbandonati. E poi mi è venuta la passione dei vintage, ho avuto un sacco di vintage, ne ho ancora, e se capita qualche d'un altro lo compro ancora, e fra, riprendi. No, ma come dici tu, meglio quando uno non se la sente è meglio che non toccare, che non tocchi niente, sennò evita di fare dei danni maggiori. Ognuno deve riconoscere i propri limiti, anche io faccio quello che posso fare, il resto delego, dai. Poi vicino in campagna c'era un certo Matteo, mi sembra si chiamasse Tramonto di Dominativo, ve lo ricordate voi, Tramonto? Io questo Tramonto non mi viene adesso, non mi viene, a meno che non, vabbè, ti ricordo che io dal 74 praticamente, 73-74 sino all'85 io abitavo a Porottorese, quindi magari quelli di Sassari li ho conosciuti dopo, capito? Riprendi Giulio. Beh, sicuramente sì, Antu. È capitato anche quello, certo, quando c'è stato qualcuno che è stato scoperto, qualche pezza già l'ha presa, dunque non è quello il discorso, certo. Sì, no, nemmeno io lo ricordo quando me l'attivo, fra, assolutamente, non lo ricordo. Tempi belli, io mi ricordo lì da Balai, parlavo addirittura con Urbia, parlavo o dalla macchina o fra, con la Colibri, con l'antenna color, che colore era? Color arancia, come te lo vuoi chiamare, color arancio, mi ricordo che era così, era una bella antenna, era una bella antenna, però ne avevo anche una lunga 2,75 m, era rossino, che era in due pezzi, si avvitava l'una con l'altra e si poteva anche utilizzare la stazione fissa con l'antenna. Infatti poi l'avevo data a mio fratello perché si aveva piazzato il negozio delle bombole, gli serviva, e gli avevo dato anche il 500S, gli avevo dato insieme a quell'antenna, perché lui il baracchino se l'aveva messo anche nella moto, e sicché dal negozio la moglie gli passava gli ordini per poter andare a vendere le bombole, no? Per le varie case, senza bisogno di rientrare sempre in negozio, tutto lì, avanti fra. Senza contare poi tutti i pescatori che c'erano lì a Porto Torres, che parlavano con la famiglia, col baracchino sul canale 1, anche quello, Claudio? L'ho detto poco fa, Porto Torres era pieno in città, no? Poi c'era il rione del villaggio Satellite, poi è nato, vabbè, il villaggio verde, ma il villaggio Satellite è quello che è nato per prima, lì era tutto pieno di antenne, abitavano tutti lì, sia il Fetta, il Fino Bianco, Primula Rossa, chi c'era lì? Quindi Vicenza, Prima Rossa, Alfetta, c'era Ernesto prima di spostarsi in via Sassari, e poi c'erano tutti i pescatori, capito? Tutti i pescatori, le mogli stavano nel canale 1 e parlavano. Noi entravamo ogni tanto a chiacchierare con loro, perché se entravi a fare questo lì, Sant'Antonio mio, ogni casino che succedia, ogni casino, Fernando, al canale 1, chi ti riceva dalle Beccadori, infatti noi ci incazzavamo, canale del compareggio, lo do io, il canale, capito, c'era sempre questa cosa, però ce n'erano un be, guarda, io a Portottolo ce l'ho conosciuto pieno di gente, pieno, nella zona di Montangillo, nella zona del centro storico dove abita mia madre, verso via Balai, era tutto pieno. Accanto a mia madre c'era Gavino Carciofo, Tore Burroni, che poi è diventato Radio Mattore, GT2, Manola la moglie, poi c'era Antonio R6, che è il padre di Gavino, l'altro Gavino, quello che modulava Portottolo, c'era via Balai. Poi c'era un pochino più là, c'era Gavino Balzano, Corsaro Nero, che però era verso via Petronia, e ce n'erano un bel vicino a casa di mia madre, poi tutta l'altra zona, quella di Montegello, sia quella Montegello Basso che Montegello Alto, e poi via Sassari ce n'erano 7-8, c'era Carlo, c'era Angelo Asso, ce n'erano parecchi, bei tempi, non avevano più nessuno. Allora sono rimasti due o tre, qualcuno sta rimettendo in sesto, ho sentito, ma comunque non è più come prima, vai giù. Gavira già! Ehi! Via Grazietta, a Satellite! Via Gavira! C'era Danilo anche, al villaggio Satellite! Danilo Girantempo, sì, ma Danilo parlava molto dalla barca, parlavano molto dalla barca, si chiamava Danilo in Baranautica, però tutti gli altri pescatori parlavano le mogli da casa e loro rispondevano dalla barca, capito, giù. Sì, lo so che tutti avevano la radio nella barca e poi parlavano con la loro famiglia anche durante la notte, a notte fonda proprio, a voglia. Avanti Gianni. Ti siete dimenticati a Zagavira, che ogni volta che mi sentivo in macchina, io passo a abitarti un caffè. C'è Gavina Sciosciò, la moglie di Domenico, ma stiamo parlando di CB, quelli CB, sì, abitava di fronte a Tore Burroni, già lo so, prima anche abitava un po' più giù, una vita, poi salita verso la punta di fronte a Tore Burroni, altrimenti di che? E paragliò, e segnato Gavino, altro Gavino, ascia di guerra, asciate le mosse la manavanna di Rugudo. Già, no, ma ciò, che gliel'ha messo. Allora, il problema di questo soprannome, sai cos'è? La madre di Zia Gavina, che forse Gianni ha conosciuto, Zia Filomena, abitava lo stesso lì tra Via Ansicola e Via Petrunia, e c'aveva la mano che le si muoveva, capito? E la teneva praticamente a 45 gradi, sempre in movimento. Cazzo, è pari a sempre che ti stava dicendo ciò, anda a dimmi, capito? Ah, ciò, avevo capito ciò. No, Gavina ciò. E un po', bombolo, ci sei? Gianni Dischetta, non so se lo sentite, chi lo sente Gianni? Giulio, tu lo senti da Polottore? Se... Attento Gianni, avanti Gianni, che quando parli già ti sento, dai. Ok già, e beh, come va? E io poi già i nomi non me li ricordo adesso, ma ti so che venire a un mare, quando io abitavo a Portottolo, se tu lo sai, che ci conosciamo una vita, e ce n'erano un bel, e io modulavo da via Cavour da casa di mamma, e ce n'erano parecchi, adesso nomi attivi non me li ricordo, però c'era un bel, sì, Eliseo, Maema di Eliseo Ruggio, Pirata che era il fratello, poi era Pastore, cioè Cosio, l'altro come ti chiamava, poi c'era quello della 167 che non mi ricordo, lì in via Balai, un bel ce n'era, comunque un bel, capito, è nato dalla mamma questo sciosciò, perché muoveva questa mano, e siccome era napoletana, capito, e muoveva questa mano e sembra che ti stava sempre dicendo vai dini, anda dini, capito, e quindi ciò, fuci con la mano. Mi. No, io era venuta che la bucacciona, quindi avevo capito ciò, no? Qualcosa del genere. Infatti ho detto, invitava a prendere il caffè, per carità, io invece ho capito male io. Tipo il film di, come si chiama, di Benigni, che muoveva la mano, vuol dire, ti ricordi quel film di Benigni? Qualcosa del genere, dottor Randazzo, la mattina si goccia, ci ho visto il vasi a destra, ti avviamo in una vasi a sinistra, capito? La mattina si goccia, no Gavina, lui tutto le poteva venire, ma pulizia e ordine a casa sua, anche io andavo a prendere il caffè, quasi tutti i giorni, sempre, mi chiamava, Pasqualini, vieni a pigliare il caffè, aspetta che sto salendo, solo che poi dal caffè, siccome il marito era un pochino bevitore, cominciava con i dazzettini dei liquori fatti in casa e mamma non voleva, quindi perché ero piccolino, ero ragazzo, capito, ero ragazzino, non ragazzo, e quindi a volte mi diceva, no, rimane di noi che non andare a lungo, noi, se no non esci stasera, e allora cazzo per non uscire, per andare a prendermi un caffè e bermi un cicchetto, che allora sai, ragazzini provavi tutte queste stronzate, allora mi rimanevo a casa e mi mettevo a parlare al baracchino, tutto lì. E vabbè, avanti, ma su giù. Ok, qua. Ascolta, togliamo una curiosità, ma Pasqualino, il tuo secondo nome era? Perché ad esempio io mi ricordo che Silvestro ti chiamava molto spesso Pasqualino. E anche Gianni Dischetto mi chiama Pasqualino. Allora, mio padre si chiamava Pasquale Agostino, ok? E il produttore ce lo chiamavano tutti Pasqualino, va bene. Quando sono nato io, perché quando è morto mio padre avevo 3 mesi, quindi non l'ho conosciuto, era un grandissimo imprenditore. Mamma ha provato a cambiarmi perché ero già battezzato praticamente, capito? Quindi mamma ha provato a inserire Pasqualino come secondo nome, però non li hanno accettato all'anagrafe, non è riuscita a inserirlo. E quindi loro hanno continuato tutti a chiamarmi Pasqualino, però il mio vero nome è Claudio, basta, non ne ho altri nomi, non ne ho nomi aggiuntivi, capito? Però se tu a Porto Torres se vai, lì c'è tanti saluti da Claudio di Sassari, e Claudio Marti, se tu dici Pasqualino mi conoscono tutti, capito? Sì, claro, ho capito, tanta gente faceva così, magari gli metteva un nome e poi veniva chiamato, è fatto grande con un altro nome, allora già si usava sì quel sistema, tante persone hanno fatto quel sistema lì, chiamando i figli, battezzandoli con un nome e poi facendoli grandi con un altro nome, e non solamente i genitori ma anche tutti i conoscenti eccetera. Bene, avanti Gianni. Marco, vediamo un po' se c'è Marco Condor. Però fra, aspettate, quando vi rilanciano, se no non ci capiamo. Cos'hai detto Gianni Dischetto? Mi lamento. E tu ti lamenti che non andiamo a Furafava e fagiolo d'onda alla campagna Bassetta. Con la buona anima di Giampaolo. Allora poverino, zoppo ma camminava. Io che ando via le vigne era tutto tra la bianca, era la campagna della setta, andiamo a Furanchi, ci sedevamo per terra, ci si spredeva una pietra, abbiamo combinato. Che bei tempi, Giulio mio, che bei tempi, per carità, però erano tanti, se torniamo ai CB, Porto Torres era pieno, forse più di Sassari, perché ce n'erano tantissimi. E non solo a Porto Torres, ce n'erano anche diversi anche ad Alghero e anche i paesi vicino a Sassari, ce n'erano in diversi posti, ce n'erano, io a Puglia era invaso, era, tu tiravi sulla testa e guardavi su in alto e vedevi sui tetti solo antenne CB. Era proprio, allora, vabbè, comunque, come dice il proverbio, il tempo viene e passa, è vero, il tempo viene e passa veramente, è così, vabbè, avanti, Antonio Bombolo. Ho detto che rimaneva in bianco e doveva fare cosa, va bene, vai doppio ru. Siamo invece rimasti quanti? In 3 a Porto Torres, c'è Tulipano, c'è Eugenio e ci sei tu già. Ah beh certo, ma comunque comunque stai disturbando il televisore, ma è strano perché se col digitale terrestre come cavolo lo fai, ma l'hai messa attaccata l'antenna a quella del televisore. E c'è gente che no, che vive e non lascia vivere gli altri, capito? Non hanno capito ancora che dove finisce la loro di libertà inizia quella di un'altra persona. Già c'era il certificato di carichi pendenti, certificato di carico del coso penale, certificato penale, vieni pure a poco di balli, lascia perdere che intanto no, non succede niente, se tu non disturbi a nessuno a futti dinni, lascia tutto così già. E anch'io ce l'ho quella lì, infatti, ce l'ho quella lì e c'è ancora la faietta HB23. E poi l'avevo sostituita col Pace 123A, poi sostituita di nuovo con l'FM500S. Ce le ho tutte io le concessioni, tu immaginati che la mia prima è datata 1975 e da lì ho iniziato sempre. C'ho una busta piena di conti correnti, non li ho mai buttati, mai, mai, mai e poi mai, capito? Immagina già di due. Vai Franco. Allora, mi dispiace poc'anzi, non lo sentivo proprio, non lo sento proprio Porto Torres, come si chiama, l'amico Gianni, non lo sento proprio, mi dispiace. Invece ti ricordi questo Macallè di Sassari o Claudio o Giulio? Io sono. A voglia, questa Macallè, già lo credo, Macallè è l'amico fedelissimo di Tazza, perché era proprio il caso di dirlo, Rosa Verde, anche lui tutte le mattine si incontravano e andavano al bar Trieste, al Corso, a embriagarsi. Macallè comunque era in gamba, è una persona, anche Rosa Verde quando era sano era bravo, non era, solo che quando beveva, per carità, voleva ammazzato quando beveva, ma quando era sano era un pezzo di pane, io me lo ricordo. E poi persona anche molto intelligente, sapeva parlare sia Macallè che Rosa Verde. E vabbè, solo che a Macallè lo sfottevano sempre, le facevano così o fra. Il rumore del treno, no? Perché era ferroviere e allora lo sfottevano in quel modo e lui si arrabbiava, mamma mia. Vai fra. Era il padre di quella della notte, Macallè. Lei usciva forte, perché io lo sentivo bene giù in campagna. Sì, usciva benissimo, io lo sentivo benissimo. No, aveva una buona stazione, aveva. E poi c'era il figlio, come si chiamava? Non mi ricordo. Lì adesso, com'è la frase Gianni, il figlio di Macallè, non me lo ricordo. Aquila della notte. Aquila della notte, Giulio, abitava, è morto 2 anni fa. Gli ho messo il baracchino io con Franco California, ho l'antenna, l'abbiamo sistemato, è morto 2 anni fa, qua a Montelecchia abitava. Sì, e precedentemente abitava anche in via Nuzzi, ma proprio agli inizi degli anni 70, 75, 80, in quegli anni lì, abitava anche in via Nuzzi, poi si era trasferito e l'avevo preso di vista, sì, a quella della notte, sì, è vero, me lo ricordo bene. E vabbè, passava sempre da me in falegnameria, ti puoi immaginare, era vicino a me, per cui non c'era problema, l'ho conosciuto benissimo. Avanti, Gianni il Porto Torres. Ecco, registrato. È registrato il break già, Marco C.O.T.U. ci siamo visti anche da poco all'Eurospin. Non è molto in forma dopo quello che è successo al figlio, è un casino. Comunque, ci siamo visti da poco. Avanti break. Ciao a tutti, aspetta, spengo qua. Ascolta, aspetta. Ascolta, c'ho questa radio, è un K, ho messo quel microfono che avevo ricostruito, l'MC60, avevo fatto il cavo che mi mancava ed era un po' che non accendevo, almeno un paio di mesi, due o tre mesi, e volevo vedere come andava. Modulazione K, modulazione tua, non ti dico che al 100% come usi l'altra, sicuramente ne usi un altro di microfono alla stessa radio. Questa è accettabile, ma non è quella solita tua. Perché questo non è il 4.40, è il 4.30, è modulazione un po' diversa. Allora, mi devi dire prima di tutto, se devo sollevare o abbassare il mitigain, perché è ferma da un po', non sapevo dove il mitigain, eccolo qui. Allora Fabri, se è quella che conosco io eccetera, la posizione mitigain della regolazione che avevo fatto io era tra il 2 e il 3, ok, in mezzo, mitigain a 3 e basta, e boh, è processore inserito, prova. Allora, poi non sono nemmeno potente perché non sono collegato a niente sotto. Allora, siamo più o meno un po' più del 2,5, 3. Sì, sì, allora è quella lì, allora va bene, è così. Modulazione K, vediamo un po' se Giulio conferma, e così tu puntelli. Sì, Fabri, confermo, va bene, va bene. Modulazione buona, 9 più 20 di segnale, vai Fabri. Ascolta, se io sollevo poco così, cosa è successo? Ma non c'è una grande variazione, forse è diventato appena più come si dice, più compressa la modulazione, però abbastanza accettabile. Claudio? Sì, Fabrice, una bomba in occhi, o stai usando troppa potenza? Prova a abbassare appena, a vedere se respira un po' di più la radio, ma un pelino di potenza. Riferimento noi avevamo con quella radio, mi sembra Santiago 5 come riferimento di potenza. Ecco, guarda così. Ecco, anche così si può tenere, così si vede lo smitter che cammina e va bene. Guarda così. Così è la modulazione migliore, evidentemente ce l'avevi troppo... Così va bene. Modulazione come l'altra che c'hai, Fabri. Perfetto, dai, allora... Così e si fa così. No, era giusto per fare delle prove. No, ma quella radio lo sai benissimo che va bene, andava bene e continua ad andare bene. C'era qualche altra cosettina che dovevi vedere tu, però la radio è perfetta, va bene perché l'ho provata anche qua io, quindi va benissimo alla grande. Ottima modulazione, segnale, non te lo dico perché sei a fondo. Sì, va bene, no, la stavo provando perché era da quando me l'ha restituita, era lì, non l'ho nemmeno accesa, è la prima volta che l'accendo. E siccome devo fare una cosa con questa radio, e tu dici che avevo l'MC60, quello che avevo ricostruito praticamente, la radio era lì ferma, e tu dici che lo colleghiamo, stavo tutto scollegato, era lì buttata da una parte, e stasera ho voluto fare questa prova per vedere come andava, perché poi ti dirò un altro momento cosa devo fare, una determinata cosa, e quindi no, non la devo vendere perché era solo perché devo fare le prove, se usciva così la posso fare quello che devo fare. Dai, sono a posto, quindi ho rifatto il cavo perché era l'unica cosa del microfono che non avevo ricostruito, per il resto è tutto a posto. Sono anche lontano dal microfono, allontanati, infatti, perché sennò diventi più complesso. Ricordati quel falso contatto che ti aveva accennato quella persona, te lo ricordi? Che quando l'accendeva dovevi dargli un colpettino? È probabile, io l'ho accesa dopo tanto e non me l'ha fatto. Vabbè, tanto non la devo dare via, quindi rimane così al momento. Vabbè, ma se devi portarla, dove la devi portare? Già me l'avevi detto. Dalle una controllatina, perché sicuramente qualche falso contatto su qualche scheda, su qualche pilino di qualcosa, Fabri, perché a me me l'ha fatto due volte e due volte l'ha fatto a lui, capito? Quindi magari mentre la stai controllando controllatela, l'unica cosa era quella lì, poi per il resto è perfetta, nuova di pacca, funzionante al 100%. Va bene, adesso tanto mi ricollego il mio e niente, dai, così lo tolgo da qua perché qua non ci fa più niente. No, non lo devo portare giù al momento, giù ci porterò un domani qualcosa di più serio. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, così proseguo e altre due cose sono fatte stasera. Pappa dell'Ogero Fabri, siamo qua, quando vuoi intervenire intervieni. Avanti Giulio, riprendi. Sì Fabri, va bene così, dai, ripeto, 9 più 20 di segnale, va benissimo, proprio 9 più 20 pieno, e la radio è buona. Bene, facciamo girare, avanti Franco. Capo, anche qua era buono, dai, il segnale era fortissimo, 9 sul più del 30, la radio, cioè, così, dai, non era il massimo, però quasi, qualcosina si potrebbe migliorare. Vi lascio un attimino che vado un attimino a cambiare quelle olive, dai, riprendi doppio room. E vabbè, no, già va bene Fabri, dai, già è a posto, KK e K di roccio. C'è Gianni Dischetto a Porto Torres, il parcheggio. Gianni! Ma cosa vuoi che venga già? Ma cosa vuoi che venga? Ma lì siamo esauriti da futtidini, ma lascia stare così, tutto a posto. E ti ho comprato anch'io quella secco, quella scritta verde, 7 euro, sì, funziona bene. Quanto vuoi dicendo? Poi faccio girare, ma la Lan 48, quello che ti avevo praticamente, è quello mio che ti ha dato Giampaolo, ce l'hai sempre, sì. E andavo a Roma stessa a futtidini. Va bene, ok. Che c'è qua ancora? Io, Giulio, Gianni doppio room, Franco, poi... Forse Marco c'è d'ascolto. Marco, ci sei d'ascolto? Marco si è addormentato, ha detto che le stava prendendo l'avvio. Brecco. Sta cucasci la notte, invece sta finita a mezza a ritre di notte, va vedendo con Giovanna e vede che non è bene una biocco. Avanti, Massimiliano. Cappa, buonasera a tutti, dai, vi saluto. Claudio, ti ho mandato un vocale. Non so se te ne sei accorto. Va bene, ok, comunque dai, saluto tutta la ruota, vai Giulio. Ecco, è registrato Brecco, ciao Massimiliano, ben entrato, facciamo entrare Riccardo, avanti Riccardo. Ciao, sono appena rientrato, ho tutta la ruota, penso che era pieno nell'entrare, va bene, cambio. Ciao Riccardino, dovresti avvicinare la bocca un po' al microfono perché sennò arrivi troppo basso. Ciao Massimiliano. Ciao Gianni, buonasera, che per te è ben ascoltato. Non so chi c'è veramente in questo canale, io sono stato un po' così. C'è anche Giovanni da Porto Torres o Massimiliano. Vai Giovanni. Gianni, quando ti sta arrivando lì a Porto Torres? Prova a vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma di c'è Abuso d'Orra? Capito. Ho capito. Zona Monte Angelo, quella zona lì, dai. Ho capito. KK. Beh, ho capito, dai. Andava. Io una volta c'era un falegname, mi ricordo che andavo a prendere i mobili per la ditta e così. Oh già, ma dove abiti? Dove abitava il gommista? Paperoga. Il gommista, Paperoga. Puttana vecchia. Ho capito, vecchia. Va bene. No, qua sta arrivando 8, segnale buono. La radio è perfetta, bella amplificata, 5. Avanti Massimiliano, che sei l'ultimo entrato, fai girare. Dove puttana vecchia? Ok, là, volevo salutare a Gianni. Mi senti Gianni? Ok, là. Va bene, ok, allora buono così, tu mi arrivi a Santiago di 5, Radio 5, vabbè, basta sollevare un pelino l'antenna magari, e va bene così, dai. No, io mi ha fatto un difettuccio alle 9 poco fa, ho acceso, e ho cominciato a camminare un frequentimetro alla rasura. È il difetto alle 9 quello. E cosa devo fare già? Qui la terra? Mi chiedilo a Giuseppe Tornado, la stessa cosa gli ha fatto a lui, gli cambiamo la frequenza, un casino. Vabbè, adesso l'ho acceso 2 o 3 volte, già è fermo, adesso è tornato alla normalità, ma l'ha fatto per un paio di secondi e poi si è rimesso a posto. Là. Tutti i sintomi di sovvenire. Sì, vabbè, vorrà dire che lo smantelliamo dall'interno e mettiamo tutto dentro un altro. Ah beh, già ci vuole poco a farlo. Va bene. Ok, dai. Massimiliano, io sto usando quel microfono che ti ho fatto vedere col capo, ho fatto lo spezzone in F1 praticamente al contrario, l'ho invertito. Piano piano ci sono riuscito, l'ho provato anche con l'Elbex, con il Polmar, col DAC non l'ho ancora provato, ho dovuto dire la tastiera, spostare tutto un casino, vabbè lo proverò. E sembra che vada bene, qua connessione 8 sembra che vada bene, però c'è stata una modifica, abbiamo fatto un Giulio stamattina, perché la capsula era troppo, un'impedenza troppo alta, quindi abbiamo messo una resistenza all'accento e abbiamo abbassato l'impedenza. Va bene, Claudia, va benissimo, Giulia. timbrica, mi hanno detto che non è uguale, chiaramente cambia un po' la timbrica, però c'è un buon effetto presenza, insomma, e già va bene, dai, si può usare, visto c'è il connettore a 8, non sto con spezzoni e spezzoncini, ho rimesso l'MB più 5 sulle altre radio e va bene così, dai, è giusto per farlo andare. Avanti Giulio. Ok, sì, stamattina abbiamo fatto un piccolo QSO di un paio d'ore o Massimiliano, e dunque ci siamo divertiti, io, Claudio e Roberto, e dunque abbiamo deciso che lì in quella capsula bisognava abbassare l'impedenza, e allora è stata saldata una resistenza all'incirca di 100 ohm per abbassare l'impedenza, ed ecco che è riuscita alla perfezione, perché prima inizialmente aveva un frastuono di bicchieri, come che tu dentro una borsa hai dei bicchieri senza essere incartati, quando camminavi si toccavano l'uno con l'altro e c'era un rumore facsimile a quello, che può creare un po' di vetro che si colpisce l'uno con l'altro, Massimiliano, tutto lì. Comunque va bene, dai, adesso una buona manutenzione, ultima per la truppa, avanti Massimiliano. Sì, vi ho ascoltato benissimo. Vi stavo ascoltando, non ero a casa mia che stavo saldando un po' di robettina a un amico, là. Stavo sistemando dei microfonini così e vi stavo ascoltando, là. Però stamattina quando è iniziato non mi piaceva per niente, era molto acuta e niente, non mi piaceva molto la modulazione. Allora, Claudio, un'altra cosa, ho provato quell'alimentatore che ieri me l'ha portato, lui è un treno, non è un alimentatore, anche se c'ha la ventola dietro, diciamo, nel posteriore, questo mio è molto più silenzioso, ma manco a paragone. Quindi praticamente è ancora più rumoroso? Sì, più rumoroso, l'ho attaccato ieri e non l'ho anche attaccato, cioè è collegato alla corrente, potrebbe andare bene qualche baracchinetto, roba così, ma qua non va bene, dai. Troppo rumore di vento la fa. Claudio. Sì, c'è anche Riccardo, ciao Riccardo, adesso ti faccio entrare. Massimiliano, io me lo ricordo molto silenzioso, allora sto confondendo forse con l'altro, o forse quello lì ce l'avevo attaccato a qualche baracchino che aveva poco assorbimento. Non voglio dire fesserie, Massimiliano. Però vabbè, tienilo tu e usalo, magari attaccale per liberare un po' anche l'altro, attaccalo, dividitelo, mettili magari qualche baracchino attaccato, dai, può sempre servire, capito? Sì, ma infatti è nato tutto da lì, Massimiliano, stamattina quando io ho sentito accostanto, ma mi ha detto appunto che non era, sì ti sento ma non è la tua voce, mi sono messo le cuffie e ho capito che c'era qualcosa che non andava, allora ho iniziato ad aprirlo, vederlo, e ho visto questa capsulona grande che è la sua originale, dove c'è scritto Turner 690 ohm, aiuto, cazzo, 600, ma lì è entrato Giulio, poi parlando, chiacchierando, insomma da lì è andato tutto, l'abbiamo abbassato l'impedenza, l'abbiamo sistemato, va bene, dai, l'importante è che si possa usare. Avanti Riccardo. Ti sentivo con QSB vuol dire con il segnale che va e viene, perché eri sicuramente in movimento, però ti ho sempre ascoltato, primi passaggi 5.7, 5.8, 5.9, quando poi sei passato lì vicino a Gianni eri 5.9 più, arrivavi benissimo Riccardo. Dica Anto. Anto, io le davo 3 watt, 3-4 watt, non di più, perché altrimenti ti crea quel problema. Ricca, faccia il 15. No, Anto, no, ma neanche al 7-4 4,7, io le do 10 watt, assolutamente, ne do 5, perché come dico sempre, e lo aggiunge a volte anche Giulio, è meglio perdere un punto S e avere la radio molto più chiara, capito? Molto più chiara, perché se le dai 10 watt e un linealetto del genere soffre troppo, quindi è meglio darle sempre un qualche watt in meno e avere una radio pulita, bella, i picchi positivi sono molto più alti, capito? Lavora meglio il lineare. Questo lo sa Massimiliano che li usa spesso, Giulio magari non ne usa, però noi parliamo sempre di queste cose, è meglio darle sempre, se ne riceve 10, dagliene 7, che è meglio, è sempre meglio. Sattira parecchio, sattira, non poco, ti mangia il 50% della modulazione. Vabbè, io il B300 che con i baracchini, il 747 dentro l'armadio, l'ho tolto, il B300 con i baracchini, le do 5 watt d'ingresso, pieni pieni, e va benissimo. Satura solo la sesta potenza, ma io la sesta non lo tengo sempre la quarta o la quinta, anche la seconda, giusto per avere qualche watt in più. La modulazione non cambia. Ok, faccio girare, avanti. Franco, ci sei ancora? Sì. Sì, capa, mi sto ascoltando, sto guardando delle capsule dei microfoni. Intanto saluto che è entrato, credo, Massimiliano e Riccardo, giusto? Correggimi, Claudio. K, il cambio a Giulio, poi vai per Massimiliano giù. Sì. È così, in effetti è vero, abbassa un pochino l'ingresso e vedrai che la modulazione si è più pulita sicuramente, perché sennò è inutile stare lì a cinceschiare e dargli troppa potenza, perché poi ti rovina la radio. Invece la radio, quando è bella, anche se il segnale può essere basso, non ci interessa niente, però la radio è piacevole da ascoltare, tutto lì al tu. Bene, avanti Massimiliano. Sì, oppure magari puoi anche, ciao Antonio comunque, ciao Franco, puoi anche cambiare radio magari se c'è qualcos'altro, Antonio, a vedere se è meglio. Se è meglio puoi cambiare radio anche. Ehi, già va bene, là. Ciao Vanni, buonasera, ben entrato, avanti. Buonasera a tutti, va bene, noi a potenza, lasciamo una mezza lineare, aiuto, se mi serve. Io se ne vedo lineare, tu, lascia stare tutto così, già arrivi prima a te. Ciao Antonio, ci sentiamo dopo, dai, alle prossimine. No, non sto toccando niente io. Va bene così, questo microfono lasciamo così, non c'è problema. Avanti, doppio room. Doppio, non c'è, va bene. Gianni Dischè, riprendi se vuoi riprendere, se no riprende Giulio. Va bene, fai, quando vuoi intervenire siamo qua, vai Giulio. Ok, ciao Vannino. Sì, vabbè, dai, io mi stacco un attimino, che ho da fare un attimino qua in una stanzetta. Ci sentiamo fra un po', dai, ok? Avanti Vanni. Ciao, buonasera a tutti gli uomini. Sì, lì, tutti toccando, smantellando, facendo, vabbè. Va bene, là. Comunque sono con l'impianto adesso, poi mi sono carico di mettere una. C'è un piccolo innesto, quindi mi abbasso leggermente la roba sulla quadratura grafica, va. Vabbè, quando c'è l'impianto con l'equalizzatore grafico o parametrico è un'altra cosa. Puoi registrare la voce come vuoi, ma io grazie a Dio, madre natura mi ha dato una bellissima corda vocale, quindi già andava bene. Io sto usando Kenwood de Gontarner, figurati tu, ma li ho provati tutti, quindi oramai non me ne fotti più nulla. Qualsiasi cosa, la proviamo, la mettiamo, la facciamo andare, vai Massimo. Vabbè, meglio così, qua. Solo una volta è dato, se avessi avuto un po' quel zebedo in più magari, è stato diverso, sto scherzando. Stanno leggendo. scherzando, ecco. Accetto, è solo che a posto del cervello mi ha dato l'uccello in più. Vedi, quella è una cosa buona, molto lungo, Insomma, 19-20, già va bene. Non solo non la rocco sui freddi, ma mi difendo, dai. Non lo sto usando più, come si usa normalmente, Massimiliano. Lo sto usando per cui miro a capo, ne ha tanto. Va bene, dai. Allora, vedi, già lo usi a qualcosa, allora è una cosa buona. Così è cranio, purtroppo succede la vecchiaia, quella era una vecchiaia a fare a 20 anni. Vanni, Mastro Giulio fa raccogli, zia, non è tanto l'odore che non te la frici dura, io l'ho già avvisato, mi non abbasciare un capo che ti pongo la baletta con un bracciere sotto, è così, certo, ma c'è l'ufficio, vedo se è rientrato qualcosa, c'è un rientro leggero, ma ce l'hai, comunque la modulazione è abbastanza comprensibile, dai. Vediamo, secondo rilancio per Gianni doppio room, altrimenti riprendi tu, fra. Ecco. Gianni, non c'è. Se ti ne vale, sono fatti due di diaghizione, Claudio. Sì, avanti, break. Ciao, sempre Fabrizio. Prima di rimettergli mano, volevo un'ulteriore conferma che sta uscendo male. Malissimo, Fabri. Sta uscendo bene ora? Malissimo. Allora, ho fatto un paio di regolazioni. Mi sono riascoltato e a me sembrava a posto, però ho detto, che ne so, sentirmi in rientro mi sembrava a posto. Qua è sempre compressa, Claudio. Io lo sento sempre compresso. Anche io. Confermo, e anche il segnale 7-8. Vabbè, sul segnale infatti che faccio così dovrebbe aumentare. Aumenta, ma Fabrizio, ciao, ben sentito. La modulazione satura completamente. Io non riesco a capire. Adesso io ho messo, vabbè, devo controllarmi un paio di correnti, se no mi fa impazzire, altrimenti. Non è possibile che faccia questo difetto. Mi sembrava che stava riprendendo, continua. Sembrava che stava, è per capire, perché io ho la mia paura, che se mi metto, aspetta un attimino, avvittiamo bene qua, se la mia paura è che se mi metto a toccare io, mi metto a fare un allineamento di ore, per poi magari non è quello, capito? Se fossi sicuro che l'allineamento più o meno ci siamo, non mi metto ad attaccarlo a 1000 strumenti. Per qualche secondo, non so se ve ne siete accorti, per qualche secondo sembrava che si stesse riprendendo Fabri, e poi è tornato nuovamente a saturare. Sì, si è ripreso per un attimo e poi di nuovo punto a capo. C'è qualcosa che sta sfuggendo. Io che già ce la fai. E tu no, ce ne hai di pazienza. Fabri, ma se ti sto dicendo che gliel'abbiamo regolato con Massimiliano, guarda qua, a Tino ha detto, ti spettacolare quel presidente, spettacolare. Ma manco gliel'abbiamo detto, dopo 10 minuti è iniziato a saturare da solo, mentre stava parlando. Ho visto, adesso aspetta un attimo, ogni tanto chiamo, vediamo se cambia qualcosa. Vedi, anche adesso sembra che si stava riprendendo, schiarisce un po' la voce e poi diventa nuovo satura. È un mistero quella radio, è una cosa impressionante. Migliora un po' se parla da vicino, se alza la voce si sente un po' meglio, ma se parla da lontano si sente molto che è compressa, che è satura. Aspetta, faccio una modifica, aspetta. Allora, ma sapete Fabrizio, vedi che già ne toglie i piedi. Avanti, doppio room, ti ho chiamato 2 volte, cerca di avvisare quando non ci sei, hai capito, bello bello? No, mi ha preso l'abbiocco, Claudio. Sono stanco, dai, ho pulito tutta la casa oggi e non ho riposato, dopo pranzo ho subito attaccato l'apparecchio, quindi un po' di stanchezza ce l'ho, dai. Mi sono abbioccato, dico la verità. Scherzando, già non succede niente. Vai Massimi, dai che io inizio a organizzarmi, a vestirmi, che così fra un po' porto a Peppetto, dai, riprendi Massi. Sì, volevo dire, ma non c'era anche coso, non c'era anche Riccardo, o sbaglio? Non so se in ingresso, io non lo so, mi ha chiamato per dargli un controllo, ma non lo so se è qua, Riccardo. No, se no avrebbe breccato poco fa, ha solo chiesto a lei come stava andando in macchina, ma già rientra lei, già lo sentiamo oramai, non ce n'è problema. Io ho sentito uno che è entrato e l'ha chiamato su un altro canale. Allora sì, perché io l'ho sentito qua, l'ho anche salutato, capito, poi boh, pensavo che fosse qua, va bene, ok, Giulio non c'è? Giulio si è spostato, stava andando un attimino a fare una commissione. Massimiliano, ti volevo fare una domanda, ma è completamente diversa la timbrica da quello che uso normalmente sto microfono? Sì, decisamente. Ed è accettabile come timbrica? Va bene, va bene. Non è la solita, ma va bene, non è abbastanza orecchiabile, dai. Ci può stare, dai. E perché? Tu sei quello appunto che conosci le mie imperfezioni e perfezioni sui microfoni, dai. Sì, accettabile, mi sono sentito in cuffia come dici tu, accettabile, dai. Ma non ha niente a che fare con gli altri microfoni, neanche con il più 4 tuo, perché il più 4 tuo l'ho provato stamattina, ma c'è un abisso, quello spinge come una cosa allucinante, questo non posso tirare più di così perché altrimenti fischia, mentre quello là spinge tantissimo. Sicuramente il fatto che questo è usato con i 9 volts esterni, mentre quello è fatto per usare con gli 8 volts della radio, quindi sicuramente la caratteristica è quella, ma poi sono due microfoni completamente diversi, quello è un dinamico, questo è un ceramico a condensatore, quindi immaginate di più, in più è pura resistenza, perciò è diverso. Vabbè, dai, l'importante è che vada bene e che si possa usare. Avanti un altro, chi è? Boh. Io ho breccato, ero curioso, un attimino, un controllo. Fabri, un po' meno satura, ma sempre c'è la saturazione. Quindi io praticamente sono ancora saturo. No Vanni, non è il microfono, aspetta, no, non è il microfono, è un problema, vai, aspetta, se non è semplice. Vedi, quando ti allontani satura. Satura sia lontano che vicino. Allora, fammi ricordare, trengere e trengere, niente, comunque non cambia niente. Fabri, ma non è che gli hanno alzato troppo il watt? No, non credo. No, c'era, poi ce li anche regolabili quei watt. Guarda, abbiamo fatto 1000 prove con il continuo. Anche se lo metti a 2 watt, e qua ci ha messo Emiliano che lavoriamo assieme, fa la stessa cosa. Comunque anche così è sempre, vero? Sì, un po' più chiara Fabri, però è sempre satura. Allora, con la radio esce bene quando è fredda. Quando è fredda è uno spettacolo. Quando inizia a scaldare fa questo difetto. No, ho provato anche da freddo, anche da freddo. Vabbè, c'è un video. Ma l'altro giorno quando l'ha provata è entrato bella, direi, proprio bella, bella veramente. Poi ho iniziato a scaldare e ho iniziato a fargli questo difetto. Adesso vedo un po', se trovo, dovrei trovare qualche, per poterci controllare, qualche sito dove trovare le tensioni, vediamo un po', aspetta, do un'occhiata, se trovo qualcosa in rete, se no il cavolo faccia a fare i controlli. E anche perché non c'hai il manual service di quella radio, vabbè. Dai signori, io mi sembra che io ci ho dato, per il momento, dai, che mi preparo, vado a portare il cane a farmi una passeggiatina, se ci siete piacere mi fa sentirvi dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati, il cambio per doppio room a girare, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ciao Claudio, ci sentiamo, buona passeggiata, dai, tra poco andrò anche io, alle 8 ci vado anch'io, dai. Avanti Massimiliano. Mi sa che ci vado anche io dopo, apro la porta, lo faccio uscire e la buia torna a casa lì, sì. Tu c'è con la comodità, mi adatte. Ma te la comprata in campagna, una casa al posto della città. La giubbette, vai Vanni. Perché? Vedi, lei a passeggiare. Io invece ho un coniglio di mia figlia e noi ci alluca. Ma chi ci sono buona mangia a fuoco, va? Chi ci sono buona mangia? Chi è avanti? Avanti il break. Salutoni circolari a tutti. Poi coronavirus. Similia. Dimmela. Allora ti do una percentuale che poi stabiliremo assieme. Tu vendimi questa, io mi compro la casa vicino a te. Bene, va. Ti do anche una percentuale, però tu trovami a comprare questa. Chi ne sono giunti 100 miglia era buoni a regalo. Ah, purtroppo con la zona non è che sia proprio. E poi così in palazzo, boh, non lo so. No, io non posso aiutarti in queste cose. L'unica cosa che ti posso dire, a fianco a me c'è una casetta in lamiera, 5 metri per 4, ti puoi fare una camera lì per il fine settimana. No, non ci sto, ma intanto c'ho la macchina 4x4, quindi non fa. E cosa mi dice pure? È un metro mi rimani. Solo lì ti posso aiutare io, Questo bello amico che c'ho. Vabbè. Ti sto dicendo che ne sono venuti a bizzeffa, sai cosa vuol dire a bizzeffa? Alla fine ho detto basta, l'ho tolta anche dalla Tecnocasa, proprio perché